La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci amici, La rosa purpurea, l'appuntamento con il cinema di Radio 24. Siamo pronti, quasi pronti al Festival di Venezia che ormai incombe, ma questa è ancora una puntata che vi parla dei film che arrivano in sala, tantissimi film che arrivano in sala in questo ultimo weekend di agosto, che somiglia molto al primo weekend di settembre. Insomma, come stagione cinematografica ci avviamo un po' verso la piena stagione. Rientro dalle vacanze, gente che presumibilmente comincerà a tornare in sala in massa. E allora noi abbiamo isolato cinque film di cui parlarvi, fra i tanti che escono questa settimana, ma abbiamo anche altri contenuti, appunto in attesa delle puntate speciali che verteranno sulla mostra del cinema di Venezia nelle prossime settimane. Andiamo a riepilogare allora, come sempre, i principali contenuti della trasmissione nei nostri titoli di testa. La disoccupazione, la Thatcher, la guerra delle Falkland, il fenomeno degli skinhead. Nell'Inghilterra dei primi anni Ottanta, il romanzo di formazione di un bambino che impara ad essere uomo troppo in fretta e in maniera sbagliata. È This is England di Shane Meadows, con le musiche di Ludovico Einaudi. È sempre più grasso e scatenato. Torna Po, il supereroe dagli occhi cerchiati, con gli amici di sempre: tigre, gru, mantide, vipera e scimmia. In Kung Fu Panda 2 dovranno lottare contro un cattivo che vuole distruggere la millenaria arte del Kung Fu. Dalla Cina con avventura. Arriva nei cinema italiani Detective D e Il mistero della fiamma fantasma, il nuovo film di Tsui Hark, il maestro del cappa e spada all'orientale. Storia di un'imperatrice cinese, di una serie di morti per autocombustione che mettono a rischio la sua incoronazione. Uccidere su commissione senza lasciare tracce, facendo pensare che tutto sia accaduto per caso. È il mestiere di Arthur Bishop, professione assassino. Jason Statham, protagonista del primo action movie della nuova stagione. Le note di uno dei brani inseriti nella colonna sonora di This is England ci aprono la strada sul primo approfondimento di questa settimana. Il film è firmato da Shane Meadows ed è ambientato nell'Inghilterra inizio anni Ottanta, quella della Thatcher, della guerra delle Falkland e del movimento degli skinheads. Sean è un ragazzino di 12 anni, vessato a scuola da compagni che lo deridono per i suoi abiti fuori moda. Sean è un tipico prodotto di quel sottoproletariato inglese che stenta ad arrivare a fine mese. Sul suo comodino campeggia la foto di suo padre, militare morto nella folle guerra delle Falkland Malvinas al largo dell'Argentina, un conflitto che ridiede orgoglio nazionale alla Gran Bretagna e fece schizzare in alto i consensi della Lady di Ferro, Margaret Thatcher, ma che lasciò sul campo un migliaio di morti per un gruppetto di scogli. Fu proprio suo padre a regalargli quei pantaloni a zampa d'elefante che ora costano a Sean le prese in giro dei compagni. Finché un giorno, tornando a casa, Sean trova un gruppo di ragazzi seduti sotto un tunnel. Hanno le teste rasate, camicie a quadri e grossi anfibi ai piedi. Sono skinhead, il loro capo è Woody e il suo tono è cordiale. Ciao bello. Ciao. Ehi, qualcosa che non va? Niente. E come mai quella faccia? Sembri un po' incavolato. Tutti mi prendono per il culo, ridono tutti di me. Questo mi spiace molto. Dai, siediti 5 minuti. Perché? Cazzo, guarda che pantaloni! Ecco, ci siete anche lui! Ma non lo vedi che è sconvolto? Che ti frega dei suoi pantaloni? Lascialo stare, no? Ma fanno schifo! Dai, aspetta, solo 5 minuti, non di più. Siediti con noi. Certo, e quando mi siedo mi prendete in giro anche voi. No, qui non ti prende in giro nessuno, te lo dico io. Forza, siediti con noi 5 minuti. Così ti tiri sul morale. Sean comincia a frequentare i suoi nuovi amici. Le missioni sono poco nobili: bighellonare per l'insignificante cittadina di mare in cui abitano o devastare caseggiati abbandonati. Ma Sean sente di essere qualcuno, di avere considerazione, di essere quasi coccolato. Sean sente per la prima volta l'amicizia. E di più, intravede in Woody e compagnia un modello comportamentale maschile che gli è sempre mancato. Abbraccia così la causa degli skinheads, a partire dalla rasatura dei capelli. Sei pronto, Sean? Sì. Sicuro? Sì, sì. Non mi sembri convinto. Fallo e basta. Se te lo faccio, non è che poi tua madre viene a lamentarsi? Oh, cavolo, fallo e basta. Va bene, allora si va. Rapatemi il capellone. Ecco qua. E via. Porca puttana. Guarda che bella testina. Oh, adesso si ragiona. No, dai, non ti agitare, bravo, sta venendo bene. Guarda che roba, stai già molto meglio. È vero, Miki? Già, è fico. Sì, è fico. Stai alla grande. L'equilibrio si rompe quando nella compagnia arriva Combo. È più grande di Woody e viene da 3 anni e mezzo di galera. Combo è un violento e un razzista. E ancora è l'ex boyfriend di LOL che adesso sta con Woody. Si capisce subito che Combo porterà nel gruppo tensioni e divisioni. Combo è un leader e mette la banda di fronte a un salto di qualità. Rimanere skinheads solo nel vestiario o affrontare i temi dell'Inghilterra come impero, del no all'integrazione con gli stranieri, di una visione più politica e nazionalista. Con uno sputo sul pavimento, Combo traccia una riga. Chi sta da questa parte, gli altri via, per la loro strada, ma nel suo discorso tocca un tasto che fa scattare la ribellione di Sean. La nostra nazione si è affermata grazie a uomini coi coglioni. Uomini coraggiosi, perché nel corso di 2000 anni, in questa cazzo di isoletta insignificante, ci sono state invasioni e poi saccheggi, perché un sacco di gente voleva fottersene un pezzo. 2 cazzo di guerre mondiali, un mare di uomini che hanno dato la vita. E perché l'hanno data? Perché noi potessimo piantare la bandiera e dire: ecco, questa è l'Inghilterra, e questa è l'Inghilterra, e anche questa è l'Inghilterra. Ma per cosa? E pensa a quei poveretti che sono andati a combattere. Bravi soldati, gente per bene, là a rischiare la vita. Credevano di combattere per una giusta causa. Ma perché combattono? Il nemico che cazzo è? Affanculo i pastori. Affanculo i pastori e tutti loro fottuti. Cosa? Non ne devi parlare. Ci sono tanti poveri coglioni che sono andati a morire per niente. Guarda che mio padre non era un coglione. Ma che cazzo stai facendo? Vaffanculo, non ne parlare, va bene? Stai calmo, amico, dai. Spiegami adesso. Dimmi che cosa ho detto di male, fammi capire. Una stronzata. Ah sì? E quale stronzata? Mio padre è morto in quella guerra. Quell'episodio dà a Combo la misura del coraggio di quel ragazzino, più piccolo di tutti ma capace di saltare addosso al capo per difendere l'onore del padre. E Sean è attratto dalla figura di Combo, che gli sembra dare un senso a quell'estate fin lì di puro e anarcoide divertimento. Tra i due si instaura un rapporto come tra fratello maggiore e minore. Il viaggio del piccolo Sean, l'orfano delle Falkland, verso la deriva razzista è appena cominciato. 50 cicche bianche, una bottiglia di whisky, 2 bottiglie di vino e 10 lattine di lager fredde. Sai cosa ti do io? Niente. Cosa? Qui non ci devi entrare, dai, via, fuori. Io voglio quella roba, pakistano di merda. Che cosa hai detto? Ti ho detto di muovere il culo, merdoso pakistano. No, ora basta. Adesso, ti insegno io. Ah! Lasciami! Forza! Vai fuori di qui! No! Ma cosa succede? Mi ha detto merdoso pakistano. Ho capito, la porta che lo butto fuori. Levagli subito le mani di dosso, è chiaro! Quelle mani di merda! Le note di Ludovico Einaudi, che ha composto la colonna sonora originale del film, sono le più indicate ad evocare il senso del destino di una generazione raccontato dal film, ma anche la sua vena malinconica. This is England è un affresco di un tratto della storia contemporanea che si tende a rimuovere. Un film che alberga i suoi sentimenti più dalle parti del Pink Floydiano The Wall che da quelle di Billy Elliot, anche se il substrato sociale raccontato è lo stesso. Qui però c'è la presenza incombente della guerra come fattore non solo di devastazione materiale, ma anche di produttrice di macerie morali, dalle quali un preadolescente fatica a risollevarsi. In fondo, quella di Sean è la storia di tanti giovani, compreso il regista Shane Meadow, che hanno metabolizzato la guerra, la povertà, l'integrazione razziale di un paese che stava cambiando in fretta, solo affrontandone i drammi. Il giovanissimo protagonista, Thomas Turgus, un'infanzia difficilissima appena alle spalle, è fenomenale. Una faccia e una sfrontatezza già consegnate al cinema inglese. La presenza di Stephen Graham, già visto in The Snatch, Gangs of New York e in Nemico Pubblico, nei panni del violento Combo, assicura spessore al cast. Il mistero è: perché un film così, girato nel 2006, è arrivato in Italia solo ora? Grazie al Festival di Roma, che gli ha conferito il Gran Premio della giuria, e a Franco Zuliani e alle sue officine UBU, che hanno deciso di distribuirlo. La rosa purpurea. Allora, ancora insieme alla Rosa Purpurea, siamo adesso, dopo aver affrontato nella parte iniziale un po' il film tosto di questa, di questo weekend, questo This is England, avete sentito atmosfere davvero molto intense, andiamo a divertirci un po', perché ovviamente nel panel delle uscite di questo weekend che tornano a riempire l'offerta cinematografica, c'è un film che non stentiamo a credere di trovare in cima alla classifica degli incassi il prossimo fine settimana. È Kung Fu Panda 2, è il ritorno di questo panda obesone molto simpatico che piace ai grandi e ai piccoli. Cominciamo subito ad ascoltare una clip. Ragazzi, avete visto? Ero tutto Wattai! Sì! Oh, ho ricevuto un messaggio. Dall'universo? Dal messaggero. Ah, sì, certo. I nostri più grandi maestri scompaiono. Temo sia opera del perfido Lord Shen, che ha lanciato una nuova minaccia sul nostro mondo. Potrebbe essere la fine del Kung Fu. Ma ce l'ho appena il Kung Fu. E ora devi salvarlo. Chiama i cinque. È il momento della prossima fase del tuo viaggio. Il mio pugno ha fame di giustizia. Quello era il mio pugno. Dobbiamo arrivare a quella torre senza essere notati da quei lupi. Capito, modello furtivo. Odio intrufolarmi. Ehi, ehi. E allora, non voglio assolutamente fare nessun tipo di paragone, anche perché sarebbe come farlo a me stesso, ma per parlare di Kung Fu Panda 2 abbiamo chiamato Boris Sollazzo. Ciao Boris! Non volevi, eh? No, no, grazie, no. Grazie. No, no, perché, come dire, no? Tutti e due abbiamo, diciamo, una corporatura importante, quindi in questo caso un po' ricordiamo, se vuoi. Allora, no, ma le occhiaie del panda sono assolutamente irripetibili. Le tue, perfetto. Hai una vita notturna più sfrenata della mia, sicuramente. Allora, Kung Fu Panda 2, un film che ci attanaglia, tra l'altro siamo in atmosfera 3D, questo vale la pena dirlo, perché insomma ovviamente non si poteva esimere da questa possibilità, ma il Panda Po a questo punto è una star, dopo il primo film, insomma, come dire, ha realizzato il suo sogno di diventare un guerriero e va di fronte a nuove avventure che lo faranno, come dire, gli faranno conoscere meglio anche se stesso. Questo, se vogliamo, è un po' il filone di questo film, no? Questo suo continuo tornare a che cosa è stato, cosa è successo, e lo scopriremo nel film cosa è successo al povero panda che poi si è trovato in mezzo a questa compagnia di giro abbastanza circense. Un film, Boris, che ancora una volta occhieggia a più pubblici, anche se mi pare che abbia un po' forse smarrito qualcosa della sua verve, della sua freschezza. Cioè, mi pare che tutto sia un po' più troppo scritto rispetto a quello che succedeva nel primo film. No, assolutamente, ha perso tutta la sua spontaneità, la sua spinta comica e anche la sua spinta tenera. Tant'è vero che, come dici tu, il film è estremamente scritto, cioè tentano con una storia onestamente strappalacrime da telenovela, cioè quello che era uno spunto comico all'inizio. Lui è un panda che ha come genitore un altro animale e quindi evidentemente deve essere stato adottato per forza di cose, diventa qui addirittura uno spunto da telenovela, per cui prende metà del film. E anche diciamo il panda che ricostruisce se stesso, in questo senso sembra un po' Rocky 3, no? Quando Rocky è diventato troppo famoso, quindi si allena poco, e un po' è quello che succede anche al panda. In questo caso diventa, diciamo, una ricopiatura di vari generi e di vari classici, senza avere però la spinta propulsiva che aveva il primo, che pur non essendo un capolavoro era davvero irresistibile, soprattutto forse in quel rapporto straordinario tra maestro e allievo che insomma era probabilmente irripetibile. Qui si cercano tutta una serie invece di strade, anche un aspetto quasi sentimentale con la sua compagna di viaggio, che in verità è un'amica, sembra quasi una scelta potteriana, no? Come il rapporto tra Daniel Radcliffe ed Emma Watson. Insomma, secondo me tra Kung Fu Panda 1 e Kung Fu Panda 2 è passato troppo cinema commerciale. Il regista e lo sceneggiatore si sono visti troppi film da cui avrebbero voluto o potuto prendere degli spunti, e alla fine sembra il numero di un fumetto italiano venuto male, quando le citazioni sono troppe e la sostanza è molto poca. Quindi devo dire che Kung Fu Panda 2 davvero non mantiene nessuna delle promesse che il primo aveva lanciato. Mi piace. Come può Kung Fu fermare qualcosa che fermi Kung Fu? Ci siamo! Ricorda, guerriero dragone, quando segui la retta via, tutto è possibile. Cavolo, ci sto! Attento ai segnali! Quali segnali? Oh, così tanti segnali! Ah, le mie vecchie nemiche. Le scale. E allora, questo era Kung Fu Panda 2. Ovviamente, come abbiamo detto, tutto quello che noi abbiamo, io sono abbastanza d'accordo con Boris su questa visione, film che in certi momenti mi ha anche un filino annoiato. Sarà stata anche la pesantezza degli occhialini in 3D che mi ha portato un po' ad abbioccarmi, però insomma, ecco, gli manca un po' quello spirito dell'opera originale. Ciò nonostante, scommessa vinta in partenza, lo troviamo prima in classifica lunedì, perché c'è tanta attesa, c'è un pubblico già pronto ad andare a rivedersi il Pandone insieme a tutta una serie di suoi amici. Siamo al gioco con la prima traccia del film misterioso di oggi. Confido che i vostri affari stiano andando bene. Già, non mi lamento. È solo che non so se riusciremo mai a trovare un Macbeth convincente. Beh, io penso che dovreste farlo voi. La Rosa Purpurea, @radio24.it. Questo era il primo frammento dei tre che vi faremo ascoltare, sul quale vi chiediamo di intervenire per individuare di che film si tratta e provare a vincere il Blu-ray di questo film. Prima di andare avanti con un'altra novità, abbiamo voluto tenere insieme questi due film, prima Kung Fu Panda 2 e poi adesso invece Detective D e il segreto della fiamma fantasma, il mistero anzi della fiamma fantasma, un titolo lunghissimo per questo film, che però vogliamo, come dire, io almeno personalmente mi sento di sponsorizzare, al di là dell'esito del film, che non è perfetto, anzi anche qui ci sono lungaggini, come dire, no, è un po' un problema del film Wuxia Pian, film cinese di cappa e spada per intendersi, che a volte tende un po' a ridondare e a farci vedere un po' troppi combattimenti esagerati, salti. Ricordate La Tigre in Dragone, per dire il capostipite, almeno qui in Occidente. Poi i cinesi questi film li hanno fatti sempre, e uno che li ha fatti sempre è proprio Zhu Yark, il regista di questo Detective D, che qui è di fronte forse al suo film più grosso in termini produttivi. Vedendolo in anteprima mi è venuto in mente che un film così oggi forse si può fare solo in Cina, perché c'è una ricchezza di mezzi a disposizione, di comparse, di grandi spazi, che in parte organizzati dal computer, ma molti anche in carne e ossa, che mi fanno pensare che si può fare solo lì, con i costi, come dire, anche della manovalanza che ci sono, perché ormai anche il cinema americano questo impatto non riesce più a dartelo, se non in pochissimi casi. Però Zhu Yark è un grande. Zhu Yark è uno che con la sua saga di storia di fantasmi cinesi ha iniziato proprio il pubblico europeo, non ancora quello italiano, perché i suoi film non venivano tanto distribuiti, lo ha iniziato però a un certo tipo di cinema, e che qui fa un po' la summa, misurandosi con l'aspetto diciamo commerciale, che forse è quello che gli fa perdere un po' di tiro, un po' di beat rispetto al suo incedere registico. Andiamo ad ascoltare una clip e poi voglio sentire Boris Sollazzo su questo film. Cina, 689 d.C. Per la prima volta una donna accede al potere, ma delle morti misteriose minacciano la sua incoronazione. Un dissidente è chiamato a risolvere il caso e a proteggere il regno. Vostra Maestà, vi ho portato di Renji. Per loro è inconcepibile che io possa salire al trono. La risposta può costarti molto cara. Allora, Boris, questo detective D ti ha divertito, oppure sei d'accordo sul fatto che, insomma, forse c'è stato un Suyark troppo, come dire, influenzato anche dalla potenza produttiva di questo film? Sono d'accordo fino a un certo punto, nel senso che Detective D a me è piaciuto, mi ha divertito nel senso dell'intrattenimento, ho trovato interessante la sua storia, tra l'altro un personaggio storico realmente accaduto. Sono comunque d'accordo che poteva diventare un film ancora migliore, proprio perché sicuramente questa macchina produttiva, nonostante il Suyark venga definito il George Lucas delle sue parti, un po' come si faceva con i calciatori riguardo a grandi emuli, in effetti, come dici tu, più si ingigantisce la produzione, più Suyark sembra macchinoso. Questo Detective D, secondo me, mi sembra forse però la sintesi migliore che ha trovato nella sua carriera. Qui riesce realmente a tenere tutto insieme. L'unico grosso difetto del film è la lunghezza, ma devo ancora trovare un film di questo genere, non mi addentrerò nel cercare di ripronunciarlo bene come te per non fare brutta figura, è la lungaggine, cioè mi sembra che ci sia un'ossessione per i combattimenti che il pubblico occidentale, pur apprezzando, non riesce del tutto a sopportare e a supportare per tutto quanto il film. Però il ritmo secondo me è interessante, l'aspetto tecnico è davvero molto curato e l'aspetto narrativo per una volta è meno schematico del solito. Quindi devo dire, soprattutto per gli appassionati, lo consiglio, anche perché di tutti i suoi emuli e dei suoi coetanei, secondo me Suyark è il migliore. Abbiamo lasciato volutamente in fondo un minimo di racconto della trama, giusto per tenere i nostri ascoltatori così, diciamo, informati. Un personaggio che tu dicevi realmente esistito, ovvero la prima imperatrice donna della Cina. Siamo nel 690, e quindi una leader al femminile e un problemino mica da niente, perché la gente che muore per combustione dall'interno, e viene chiamato questo Detective D appunto a cercare di svelare il mistero, e questa sarà un po' il filone che poi attraverserà questo film. Grazie allora Boris Sollazzo, appuntamento la prossima settimana, saremo tutti al Festival di Venezia per raccontarci come staranno andando le cose in Laguna. Ciao Boris. Appuntamento al Lido, ciao. La Rosa Purpurea. Quello che faccio richiede una certa forma mentis. Ho dei mandati, degli obiettivi prescelti. Certi lavori devono sembrare incidenti. I lavori perfetti sono quelli in cui nessuno si accorge di te. Parliamo di Professione Assassino, The Mechanic, nei cinema italiani da questo fine settimana. Barranquilla, Colombia. Un ricco narcotrafficante viene riaccompagnato nella sua lussuosa villa da una scorta di 5 SUV blindati, rigorosamente neri. Poi un tuffo in piscina, anch'essa di marmo nero, che il kitsch non è mai troppo. Un'immersione verso il fondo, ma lì due mani possenti si avvinghiano al suo collo e lo annegano. Fine di un narcos. Un uomo sveste la muta da sub, salta da un ponte, si aggrappa a un barcone che solca il fiume. Poche ore dopo è nella sua casa di St. Louis a godersi su internet la notizia delle sue gesta. Quell'uomo è Arthur Bishop, professione assassino, in gergo The Mechanic, quello che aggiusta le cose. Arthur è un tipo metodico, severo con se stesso quanto lo è con gli altri. Uno che lavora pulito, non lascia tracce, fa sembrare sempre tutto più o meno casuale, non fa trasparire un movente e ascolta ottima musica classica. Per questo quelli della Company lo amano. Il suo capo e mentore, Harry McKenna. È inutile, sei il migliore. Sei una macchina. Hai bisogno di un po' di compagnia. Mi basti te. La compagnia a cui Harry si riferisce è quella del figlio Steve, un poco di buono, sempre in mezzo a guai da droga e alcol, che ha sempre mal digerito il feeling speciale che unisce suo padre ad Arthur. Ma lui, il meccanico, come avete sentito, si basta da solo. Un giorno, digitando sulla pagina internet dell'agenzia l'inserzione criptata per la sua nuova missione, Arthur, al materializzarsi della foto dell'obiettivo, non crede ai suoi occhi. Harry ci ha traditi. Più resta in vita e più la compagnia è in pericolo. C'è uno sbaglio. Non ci saranno contrordini. E così, il suo nuovo obiettivo è proprio il vecchio Harry. Così ha deciso l'altra metà dell'organizzazione. Harry ha tradito e una missione lontana è finita male, con molte perdite. Lui solo sapeva e ora va eliminato. Per un lavoro pulito, chiamate il meccanico. Arthur Bishop non si ferma davanti a niente, nemmeno all'affetto e alla pietà che prova per quell'uomo sulla sedia a rotelle, ma quel momento cambierà la sua vita. Steven McKenna, mi dispiace per tuo padre. Mancherà molto più a te che a me. Voglio imparare il tuo lavoro. Voglio farlo. Lui era il tuo mentore. Glielo devi. Sai che cos'è un meccanico? Un assassino. È ora che cominci a fare sul serio. Al cimitero Arthur e Steve McKenna si incontrano, avete sentito. Il meccanico sa che l'unico modo per rendere omaggio all'uomo che ha ucciso è fare la sua volontà. E allora, pur senza entusiasmo, prende sotto la sua ala il giovane scapestrato Steve per insegnargli un mestiere, l'unico che sa. E Steve, in mezzo a un mare di violenza inespressa, scopre di avere un talento particolare per quel lavoro. Le missioni solitarie di Arthur si trasformano in lavori di squadra, fino a quando appare chiaro che sul tradimento del vecchio Harry qualcuno ha barato. Era la squadra migliore. Ne manderò un'altra. Risparmia la benzina. Vengo io da te. Pensi di trovarmi prima che io trovi te? L'ho già fatto. Ottimo ritmo, qualche tuffo nell'inverosimile, come si conviene ai film di spie e assassini, ma tutto sommato un divertimento che vola lungo i 92 minuti punteggiati da sparatori e morti feriti e missioni più impossibili di quelle di Tom Cruise. Professione Assassino è il remake di un classico del 72, allora interpretato da Charles Bronson, e prodotto dai leggendari Irwin Winkler e Robert Chartoff. Così i figli di quei produttori, David Winkler e Bill Chartoff, si sono messi insieme per questo remake e hanno chiamato nel ruolo del protagonista quello che, se non è il Charles Bronson di oggi, ha certo una carriera già segnata da ruoli col grugno. È Jason Statham, lanciato da Guy Ritchie in Lock and Stock e poi passato per una mezza dozzina di personaggi duri e spietati, compresa la trilogia di Transporter. Il suo mentore, Harry McKenna, è Donald Sutherland, che ancora una volta muore dopo 20 minuti, sta diventando un po' un vizio dei suoi personaggi recenti. Il figlio Steve è Ben Foster, già visto in Alpha Dog e nel Treno per Yuma. Dirige Simon West, specializzato in action, suoi Con Air e Tomb Raider, che però qui, pur con qualche patinatura di troppo, ha il pregio di mettere in scena botte e sparatorie solo quando serve e di lasciar respirare i film nei vuoti, nei silenzi e nelle parole di un rapporto mentore-pupillo che sembra quello fra padre e figlio e che rimane la cosa più bella del film. Questo era Professione Assassino, The Mechanic, nei cinema italiani da questo fine settimana. Un film d'azione per chi ama il genere. Noi a questo punto invece giochiamo con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Perdonatemi, ho bisogno di scambiare una parola con il dottor Knox. Mi sorprenderei se il dottor Knox volesse parlare Scusatemi, con voi. Ora che dottor Lester, e vi prego, non fraintendetemi, ma il vostro alito è pestilenziale. La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica. Se avete già indovinato di che film si tratta e volete provare a vincere il Blu-ray di questo film, ovviamente come sempre metteteci già l'indirizzo vostro privato, perché questo in caso di vittoria agevola le possibilità e le spedizioni della nostra redazione. Settimana prossima, come sempre, vi diremo chi è il fortunato vincitore. Fra poco l'ultima possibilità per questo gioco di oggi. Parliamo ora di questo Student Services, che anche in Italia ha preso il titolo internazionale, equivoco e pruriginoso quanto basta. Si fa presto a capire che i servizi agli studenti cui si riferisce il titolo non sono fotocopie né ripetizioni. Più ironico e sociologico è il titolo originale francese, Mes chères études, i miei cari studi, cari a livello economico ovviamente. E cosa fa allora studentessa 19enne che per mantenersi all'università salta i pasti ma poi sviene a lezione che non ha i soldi per pagarsi l'affitto dell'appartamento che condivide col suo fidanzato, che non arriva a fine mese con le bollette e gli staccano la luce? Sapete cosa fa? Il mestiere più antico del mondo. Sì, perché Laura è bellissima, alta, bionda, lo sguardo sensuale, il portamento nobile. E allora, quella sera, quando chattando finisce su un sito di annunci e trova un uomo disposto a pagare 100 euro per un'ora di tenerezze, il suo dito scivola sul click. Dall'altra parte c'è Joe, un sessantenne solo. Il primo incontro è un disastro. Laura sale nella stanza dello scalcinato albergo della periferia di Besançon, ma nonostante la delicatezza dell'uomo è un pezzo di marmo. Ma quando Joe la paga, il brivido dei soldi le fa capire che quella non sarà un'esperienza unica, come si era ripromessa. Anzi, da lì in poi sarà un susseguirsi di servizi fotografici, abitini succinti da cameriera, brutti amori in macchina, amplessi da sottoscala. Il panorama delle solitudini maschili è ampio e variegato e lei, Laura, superati gli imbarazzi iniziali, ci sguazza, recuperando una serenità che le permette addirittura di rifarsi una vita sentimentale con Benjamin, un ragazzo normale. Donc, appartement sinistre, assurance, tout le bordel. Du coup, je suis retourné habiter avec mes parents. Et c'est bien chauffé, quoi. Mais tu gagnes pas d'argent. D'accord. D'argent. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. D'argent. Hein. Si, ça m'arrive. Donc t'as un boulot. Un peu de boulot, un peu de chômage. Insomma, il nostro Benjamin è un po' un fannullone. Laura decide che non lo farà più, che è il momento di chiudere quella parentesi, ma l'inutile ricerca di un lavoro vero e la facilità con cui i soldi piovono nelle sue tasche le fanno capire che non sarà facile liberarsi dei suoi clienti. Laura non è più una studentessa indigente, si è trasformata in una prostituta col desiderio di smettere. Il primo contatto è stato super. Mi ha veramente fatto piacere. Magnifico. Non mi attendevo a qualcuno come te, eh? En plus, t'es sensible, t'es avenante. J'apprécie beaucoup ça. Tratto dall'omonimo libro Scandalo, un grande successo in Francia, firmato da Laura D., una studentessa che si manteneva agli studi prostituendosi, il film affronta un tema purtroppo più comune di quel che si pensi, la prostituzione studentesca, che secondo statistiche francesi interessa il 10% del corpo studentesco, non solo femminile. Una nota di produzione: in Francia il film è stato prodotto da Canal Plus, una produzione televisiva, quindi una cosa impensabile nel bel paese delle fiction su santi e navigatori. Dirige Emmanuel Bercot al suo terzo film, con uno stile crudo, immediato, quasi documentario, sottraendo il pathos che ne avrebbe amplificato certo il côté cinematografico, ma lo avrebbe reso probabilmente meno verosimile. Laura, interpretata da un'ottima Deborah François, contiene le sue emozioni, non esplode in pianti a dirotto, tranne che in un paio di occasioni, anzi cerca di mettere sotto controllo il suo nuovo status e gli umori che ne conseguono. E i soldi sono una medicina formidabile. E quanto si rende conto di non essere più lei a controllare il gioco, a dire cosa si può e non si può fare, che inizia la sua ribellione. Allo? C'est moi, Laura. T'appelles du portable d'un copain. Alors, t'es pas encore mort, toi? La rosa purpurea. Ed eccoci ancora insieme qui in fondo alla nostra rosa purpurea di questo fine agosto e come sempre incontriamo gli amici della redazione del settimanale Film TV che ci danno un'occhiata per noi ai palinsesti della settimana successiva per quel che concerne i film. Come sempre in chiaro e gratuiti, questa almeno la nostra policy qui alla Rosa Purpurea. Oggi siamo in collegamento con Andrea Fornasiero di Film TV, che saluto. Ciao Andrea. Ciao Franco. Allora, una scelta tosta, diciamo così, oggi, un film con un cast di attori davvero importante, che si intitola in italiano, anzi non in italiano perché non c'è ancora un titolo italiano, ci spiegherai anche perché, 44 Inch Chest. Ecco, allora, traduciamo il titolo e raccontiamo un po' di che film si tratta. significa torso di 44 pollici di circonferenza, immagino. Quindi insomma uno ben messo. Esattamente, infatti il protagonista è Ray Winston, che è notoriamente piuttosto grosso. E allora, dicevamo titolo inglese, titolo originale, perché è un inedito. È un inedito assoluto, in Italia non è uscito in nessuna forma, né in DVD, né in altri canali satellitari, né tantomeno in sala. E allora, raccontiamolo un po'. Allora, Colin è distrutto dal tradimento della moglie e riceve il discutibile aiuto degli amici che rapiscono per lui l'amante di lei. Il resto avviene tutto in due stanze e in una notte da incubo. È un film eminentemente di scrittura, è sceneggiato dalla coppia Mellis e Shinto, che già aveva lavorato Sexy Beast di Jonathan Glazer circa una decina di anni fa. Come allora viene chiamato a dirigere un esordiente di talento del mondo degli spot e si riuniscono gli attori Ray Winston e Ian McShane, che erano i protagonisti di quella pellicola. Al loro fianco non c'è più Ben Kingsley, ma ci sono un trio di talenti notevolissimi come John Hart, Tom Wilkinson e Steven Dillane. Il tutto è musicato da Badalamenti con un paio di brani prodotti dai Massive Attack. Con un gruppo di talenti del genere si resta volentieri stregati ad ascoltare le lucubrazioni che si intrecciano ai sogni e gli insulti più arzigogolati al rumore dei cuori infranti. Un film ipnotico ed enigmatico. Beh, è un film tra l'altro che mette insieme, tu hai detto, nel cast personaggi che sono nel frattempo diventati di straordinario peso nel cinema, non solo britannico ma anche americano. Penso a Tom Wilkinson, tu pensi a Ian McShane, tutti pensiamo a John Hart, insomma sono nomi che sono diventati davvero di spessore, e le musiche di Angelo Badalamenti. Tom Wilkinson appunto è uno che ormai in America si vede spessissimo, Ian McShane viene preso sempre a fare il cattivo, Wilkinson, cioè Ray Winston è comunque un'icona del cinema gangster inglese, era anche nel recente London Boulevard, quindi sì, e John Hart, vabbè, è un mito a prescindere. Allora Andrea, ricordiamo l'appuntamento televisivo. Sì, va in onda martedì 30 su Rai 4 alle ore 21.10. E quindi ore 21.10 Rai 4, assolutamente gratuito e in chiaro per il digitale terrestre. Questo 44 in chest. Grazie ad Andrea Fornasiero di Film TV. Ciao Franco e un saluto agli amici di Radio 24. E allora, dopo il consiglio della settimana con gli amici di Film TV, è arrivato il momento di giocare per la terza e conclusiva volta in questa puntata con il Blu-ray Game. Ascoltate l'ultima clip. Che io sappia, è stato trovato nel vicolo dietro l'edificio da alcuni studenti. Questo è un noto malvivente, Danny McTavish. Almeno la sua dipartita non sarà stata inutile. San Pietro guarderà con favore al servizio reso alla medicina. E allora, avete indovinato di che film si tratta? La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica. Tra l'altro per questo game abbiamo qualche Blu-ray in più e quindi, come dire, cercheremo di premiare il maggior numero di ascoltatori possibili. Settimana prossima, come sempre, qua in onda ci sarà la soluzione del game e l'annuncio dei vincitori. E invece, 7 giorni fa avevamo giocato con questa clip. Sono stato inviato qui dal segretario della difesa per ordine del presidente degli Stati Uniti. È un'emergenza che investe la sicurezza nazionale. Mi segue a bordo dell'elicottero senza fare domande. E beh, il tema del giudizio finale, dell'Armageddon, della fine del mondo, è un tema che chiaramente ha sempre affascinato il cinema. E nel 1998, appunto, uno specialista come Michael Bay firmava Armageddon, giudizio finale, con Bruce Willis e Billy Bob Thornton, Ben Affleck, un cast straordinario e stellare. Adesso in Blu-ray ce lo facciamo raccontare dal nostro Claudio Poffi, che è già in collegamento con noi. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, sicuramente il Blu-ray è più che mai il modo migliore per divertirsi con questo blockbuster rispetto a un DVD che aveva delle pecche, perché insomma c'erano diverse situazioni scure e buie. Sicuramente di eccellente qualità video audio, c'è una traccia di DTS in italiano veramente notevole, addirittura DTS ad alta risoluzione in inglese. Come extra, purtroppo, sono disponibili solo teaser e trailer, oltre al videoclip musicale degli Aerosmith. Ricordo ai collezionisti che negli Stati Uniti venne rilasciata un'edizione speciale 2 DVD con diverse ore di extra, che è fuori catalogo e che comunque non è ancora stata editata in Blu-ray. E chissà che prima o poi, magari con l'occasione del 15° anniversario o di qualche diavoleria del genere, non arrivi anche da noi questa edizione. Noi andiamo avanti, dopo Armageddon alleggeriamo il clima, qui non c'è nessuna fine del mondo, ma ci sono tante belle ragazze, perché parliamo di Easy Girl. Noi non abbiamo fatto sesso, ok? Ti ho fatto palpeggiare le tette e per te è stata la gloria nei cieli, niente a che vedere con qualsiasi altra esperienza del passato, incluse le torte, chiaro? Oh, scusa, $100 per essere andato in seconda base? Sì, esatto. Ma non è un prezzo esorbitante? Mettiamoci anche una tastatina al sedere o una strusciatina? Quanti anni hai, 9? Quanti te ne pare? Allora ci stai? Sì, va bene. Affare fatto. Grazie, Olive. Sai qual è la cosa triste? Se mi avessi chiamato e mi avessi chiesto di uscire, io avrei accettato. Olive è una liceale tutta d'un pezzo, ma quasi nessuno si accorge di lei. Scappata una bugia sulla propria verginità con un'amica, i pettegolezzi iniziano a circolare sempre più insistentemente e così, almeno all'inizio, la giovane decide di lasciar correre questa valanga di gossip per vedere crescere la sua popolarità, almeno sino a quando la situazione non le sfuggirà di mano. Teen comedy che, incespicando tra luoghi comuni, dimostra comunque un certo carattere con ritmo e numerosi momenti azzeccati. Arriva da Sony Pictures Home Entertainment il DVD, c'è anche il Blu-ray, entrambi sono di notevolissima qualità. Il Blu-ray in più offre una traccia DTS alta risoluzione in inglese, anche in italiano. Tra gli extra, il commento del regista assieme all'interprete principale Emma Stone, un focus sui teen movie degli anni Ottanta e curiosità sulla produzione da seguire per tutta la durata del film. E adesso un bel salto all'indietro, un classico di un grande maestro come Joseph Losey, stiamo parlando di Sciacalli nell'ombra. Quando hai mentito in tribunale, quando hai detto che non mi avevi mai visto, non l'avrei fatto per salvare un assassino, vero? Io non so più. Hai creduto che fossi colpevole, è così? No, io non ne ero sicura. C'erano altre ragioni. Quali altre ragioni? Su, che altro c'era? Parla. Non posso dirtelo, sono troppo importanti. Dimmi la verità, credevi che fossi colpevole. Allora non mi conosci per niente. Io ti conosco invece. Webb è un poliziotto che riceve l'ordine di sorvegliare l'abitazione della ricca e affascinante Susan, che ha segnalato un estraneo nei dintorni. La gente rimane folgorato dalla bellezza della donna al punto da indurla nell'adulterio, pianificando addirittura l'omicidio del marito, simulando un tragico incidente. Tutto va secondo i piani, ma purtroppo la donna è incinta e Webb è solo preoccupato che il rapporto extraconiugale faccia affiorare la verità. Nel 1951 il maestro Losey firmava il suo quarto lungometraggio, un noir emotivamente intenso che vanta tra i suoi ammiratori addirittura il grande scrittore James Ellroy. Il film fu girato con un budget ridicolo in soli 17 giorni. Da Sinister Film, il DVD con la versione restaurata, bianco e nero più che dignitoso, con momenti di comprensibile calo del contrasto. Ci sono una doppia traccia italiano e inglese, sicuramente quella in inglese è più consigliabile per aumentare il mood del racconto. Come extra c'è una galleria fotografica. Attenzione che negli Stati Uniti questo film è uscito fuori catalogo ed è pressoché irreperibile. E allora questa è un'occasione per recuperarlo almeno in Italia. L'ultima proposta di oggi è un film del 1999, una commedia firmata Hugh Hudson, con un cast variegato ma con alcuni motivi di interesse che vanno da Colin Firth a Mary Elizabeth Mastrantonio alla Irene Jacob di Kieslowskiana Memoria. Stiamo parlando de La mia vita fino ad oggi. È colpa di papà se sono ignorante, perché non mi dice mai niente di utile. Se gli chiedi perché Beethoven è così meraviglioso, lui ti dice cose del tipo: Beethoven è il suono che emette Dio quando parla nel sonno. E se gli chiedi perché odia tanto il jazz, lui ti risponde: il jazz è il suono del diavolo che sghignazza della nostra follia, Fraser. Così alla fine tu non capisci niente. L'unica cosa che so adesso è che il diavolo non curiosa in soffitta, perché quello lo faccio io. Nell'Inghilterra degli anni 20 seguiamo le vicissitudini del piccolo Fraser, bambino curioso che racconta la sua infanzia all'interno di una numerosa famiglia con una madre autoritaria, un genero inventore e un'anziana zia. Il piccolo finirà ripetutamente per scontrare la sua giusta curiosità verso il mondo contro il muro di gomma del bigottismo. Tutto sarà destinato a radicali cambiamenti alla fine della Prima Guerra Mondiale, con l'arrivo di una giovane cameriera francese. Interessante commedia agrodolce diretta da Hugh Hudson, comunque incapace di tornare ai fasti di opere del passato come Momenti di Gloria e Greystock. Il racconto, ricordo, è basato sulle memorie di Dennis Forman, regista e presidente del British Film Institute. Pubblicazione su DVD da CG Home Video, la qualità delle immagini è discreta, purtroppo è presente la sola traccia in italiano e nessun extra. Attenzione perché questo DVD è comunque molto interessante per i collezionisti nel momento che il titolo non è più disponibile in America. E allora, questa è La mia vita fino ad oggi di Hugh Hudson. Noi salutiamo Claudio Pofi, appuntamento alle prossime settimane con le segnalazioni in un video qui per La Rosa Purpurea. Ciao, a presto! E con questo abbiamo chiuso anche questa puntata della Rosa Purpurea. Bentornati probabilmente, insomma, almeno alle vostre abitazioni, alle vostre anche abitudini come quelle di andare al cinema. Settimana prossima, Mostra del Cinema di Venezia che impera, noi saremo lì e vi racconteremo tutto qui il sabato alle 18, in replica la domenica alle 15. Un saluto da Franco D'Assisti.